Visual. Che cos'è per chi non lo ha mai provato? Io ho detto che è un servizio tra, in realtà ho detto tanti, forse non ce ne sono tanti di servizi del genere. Ecco, diciamo subito di che cosa stiamo parlando. Parliamo invece di un servizio unico, perché è la possibilità di vedere tutto il paese, cioè tutta l'Italia, ad altissima risoluzione fotografica, la migliore esistente al mondo, cercando, voglio dire, o una strada, una città, una pizzeria, un hotel, un amico, perché si possono cercare anche tutti i nomi delle persone, che ovviamente sono registrate su pagine bianche. Quindi permette di vedere in modo nuovo, visuale appunto, tutto il paese. Quindi è una, pensi, sono 50 terabyte di dati ospitati da 256 server che permettono di andare a vedere quindi il paese in un modo nuovo, non solo più le mappe, diciamo, del tutto città, quelle che ci sono note, ma proprio la visione fotografica, che permette di riconoscere a grandissima risoluzione i singoli edifici, le singole strade e anche di camminarci dentro. Sì, poi parleremo anche, insomma, delle varie sfaccettature di questo servizio. Senta, queste sono fotografie fatte come? Visto che a volte si dice satellite o aeroplano, elicottero, come sono fatte? Allora, le foto viste dall'alto è un insieme di viste satellitari che man mano che si scendono sono prese dall'aeroplano per aumentarne la risoluzione. Quindi le foto a maggior risoluzione sono quello dove lei vede il dettaglio, la casa, per capirci, sì, sono prese da un aeroplano, perché il satellite non riesce a fare questo. Quindi è come se lei passasse, facendo un esempio, come quando taglia l'erba su un prato, no? questo aeroplano passa e fa delle strisciate lunghe. Di fotografia, esattamente. E poi si mettono tutti insieme. Il satellite invece prende tutto il paese, ecco, a passaggi successivi sul paese, però non riesce chiaramente a darci questo dettaglio. Poi c'è l'altra parte che noi chiamiamo on the road, che è la vista stradale, e invece sono proprio delle macchine che girano dentro le strade. Delle automobili a tutti gli effetti, che hanno due camere digitali che girano a 360 gradi e continuano a scattare foto. Hanno anche un lettore di GPS che permette di posizionare queste foto. Quindi questa cosa molto complicata, no, descritta così, poi in realtà permette di passeggiare in ogni singola strada facendo riconoscere, quando si clicca, esattamente che cosa si sta facendo e dove si sta andando. Stiamo parlando di Visual, che è un servizio che è possibile utilizzare su un computer collegato ad internet. Non bisogna scaricare nessun software. Non c'è nessun software, funziona con Flash, che è la cosa diffuso su tutti i navigatori. Al 95%. E in realtà tra due settimane, poi magari ne verremo a parlare, ci sarà anche la versione per telefonino. Si vedranno gli stessi servizi su telefonino. Senta, in realtà mi permetta, le do un'altra informazione, molti di questi servizi saranno disponibili su tutti i navigatori satellitari della Fiat in automobili. Abbiamo fatto un accordo con loro e dalla 500 in poi molti di questi servizi saranno sulle automobili Fiat. Senta, le faccio ancora una domanda su la tecnologia che viene utilizzata per costruire questo servizio. È tutta made in Italy? Sì, sono tutte aziende italiane che collaborano con noi. Per esempio abbiamo lavorato con un'azienda di Firenze che è specializzata nella digitalizzazione dei quadri ad altissima risoluzione, che ci ha aiutato poi invece con una versione modificata a mettere insieme le fotografie. La parte del 3D è fatta da un'altra azienda che è a Mantova, quindi sono quasi, direi, la stragrande maggioranza sono assolutamente italiane. Esiste un tasso di aggiornamento delle fotografie, perché magari viene costruito un palazzo, viene fatta una strada, una piazza? Assolutamente sì, ma consideri anche lo sforzo enorme per rifotografare tutto il paese. Ci abbiamo messo 2 anni con Telespazio, che è la maggiore azienda nazionale del settore. Quindi per rifotografare il paese a questa risoluzione, perché ci vogliono le autorizzazioni, ci vuole il tempo giusto, non deve, una volta su Roma si è bloccato tutto perché veniva Madonna e non hanno permesso il sorvolo degli aerei. Quindi insomma, cioè, è una cosa proprio complicata tecnicamente. Quindi voi pensate di rifotografare tutto in quanto tempo? Ma guardi, diciamo, adesso aspettate un po'. Aspettiamo un po'.